allora... investire informati. Scusate. Ormai purtroppo è evidente quanto il mondo si sia trovato impreparato ad affrontare con efficacia e tempismo questa emergenza sanitaria. Così come i risparmiatori, che non saranno mai preparati ad affrontare le crisi finanziarie, una diversa dall'altra e tutte impattanti sul breve, nel risparmio e sui portafogli. Ma noi possiamo vincere entrambe queste battaglie contro queste crisi solo se riusciremo ad usare le vere armi a nostra disposizione, con uguale metodo e rigore. Queste due armi potentissime sono, secondo me, fiducia e comportamenti virtuosi. Fiducia che va rivolta verso chi vi possa offrire professionalità, esperienza, sicurezza, empatia, e verso chi possa supportarvi anche in momenti difficili come questo, verso il raggiungimento dei vostri obiettivi di vita, senza interrompersi, senza guardare indietro e senza tremare di fronte ai naturali imprevisti del breve periodo. Fiducia, quindi, nella scienza, nella ricerca e negli operatori sanitari, così come fiducia in un consulente finanziario per battere questa emergenza così originale ed epocale e superare la crisi finanziaria che ne deriverà, a prescindere dalla durata e dalla sua profondità. E poi comportamenti aggiungo virtuosi, perché solo attraverso la razionalità, non rimanendo preda delle emozioni e della paura, che pure rappresenta un sentimento naturale, ognuno di noi potrà superare ogni tipo di difficoltà, sia sanitaria che finanziaria. Ogni comportamento in cui predomineranno le emozioni porterà sfiducia verso il futuro del mondo, porterà a commettere errori e di conseguenza a procurare perdite dolorose al patrimonio. Ogni comportamento invece in cui predomini la razionalità utilizzerà un metodo di gestione degli eventi per trarne un vantaggio per il futuro, per la salute come nei portafogli. Vantaggio fatto di esperienze da riprodurre, da guadagni e da opportunità da accogliere. E poi lasciami aggiungere un ultimo prezioso alleato di tutti noi, il tempo. Dobbiamo imparare ad utilizzarlo e non a perderlo. Utilizzarlo per apprendere, per migliorarsi, per capire e studiare nuove tecniche e anche nuovi stili di vita. Ma il tempo è fondamentale nella gestione dei risparmi. È sicuramente forse la nostra arma migliore. Dobbiamo saperlo valorizzare per lasciare a noi e alle generazioni future un più diffuso benessere. Allora, ce la possiamo fare, sentiamo un po' se adesso vanno meglio le cose, Mauro? Sì, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Non abbiamo un problema. Allora, quello che abbiamo ascoltato era Dario Cambi, consulente finanziario di Banca Fideuram di Piombino. Stiamo continuando a proporre ai nostri ascoltatori la carrellata dei consigli per gestire bene i propri risparmi in questo momento così complicato. Quindi le nostre pillole, un consiglio al giorno. Quindi abbiamo fatto il test, la voce funziona, le borse sono in rialzo, Milano guadagna 1,5 punti. Visto che prima non siamo riusciti a dirlo, lo dico adesso e la chiudiamo qua, Mauro. Esattamente, guarda, mi veniva da dirti come va lì Aquarius, per riprendere proprio la frase famosa di Apollo 13. Allora, sì. Qui invece, se non abbiamo altre indicazioni da dare più puntuali sui mercati, Deborah, ma mi pare che insomma avevi già dato, ci hai già detto con questo valore di ripresa dei mercati per la borsa di Milano, come si sta muovendo oggi. Allora io giro subito tutta la questione a Lorenzo Alfieri. Alfieri, qui abbia pazienza, ma veramente il saliscendi delle borse ci mette in grande difficoltà. Abbiamo seguito attentamente quanto lei ci ha spiegato, bisogna verificare il peso dei listini. Allora, estendendo il discorso sulla piazza milanese, mi viene da pensare, questo è un momento delicatissimo per il settore del credito, che sappiamo essere predominante proprio nel listino milanese. Significa, che cosa può significare questo in prospettiva per la borsa italiana e per, diciamo, anche l'ambito europeo, l'area euro? Sicuramente appunto siamo in una fase molto fluida e volatile. Questa, diciamo, insofferenza dei listini con forti correzioni o anche interessanti e importanti recuperi testimonia il fatto che c'è poca visibilità circa la crisi che stiamo vivendo. Questo ovviamente sta condizionando anche le scelte degli investitori. Finché ovviamente non ci saranno chiare prospettive in termini di conclusione ovviamente di questa crisi sanitaria in primo, che poi ovviamente ha ripercussioni poi sulla crescita, o meglio in questo caso la possibilità di recupero delle economie e quindi in ultima analisi anche dei listini. Ovviamente nel breve termine ci sarà molta sofferenza e molta volatilità, soprattutto diciamo in Europa, dove abbiamo visto che paesi, non solo l'Italia, sono fortemente impattati da questa crisi diciamo sanitaria in primis. Per quanto riguarda l'Italia, ma anche il settore bancario, possiamo dire che stiamo entrando ovviamente in questa fase di maggiore crisi, però con un settore, quello bancario, che sicuramente si è rafforzato. Si è rafforzato negli ultimi anni grazie a tutta una serie di regolamentazioni che sono state imposte dalle autorità centrali e che hanno permesso anche dalle banche italiane di rafforzarsi. Quindi le banche diventano elemento fondamentale per il rilancio. L'aspetto, direi, il bicchiere mezzo pieno è che sicuramente abbiamo delle banche molto più solide rispetto a quelle di qualche anno fa. Il tema bancario, Mauro, se mi permetti, è molto interessante. Io intanto sono un po' qui agitata per il fatto che non possiate sentirmi, perché tu sai, gli ascoltatori lo sanno, io racconto la borsa tutto il giorno e in questo periodo siamo molto concentrati sulla ripresa della stagione delle trimestrali dagli Stati Uniti, e le prime società che diffondono i conti del trimestre sono proprio le banche, e abbiamo avuto tutta la rassegna dei principali big del settore in questi giorni, e i conti del primo trimestre fanno già i conti con il mese di marzo. Gli utili si sono letteralmente dimezzati, soprattutto le banche devono predisporre molti accantonamenti, dicono, per fronteggiare eventuali possibili crisi sui prestiti che devono erogare appunto prossimamente, che stanno erogando in questo momento, e quindi già ipotizzano l'arrivo di molti default, di molte difficoltà da parte delle aziende poi a restituire questi prestiti ottenuti. Probabilmente ritorneremo a parlare nel prossimo futuro appunto di NPL, di crediti deteriorati se non più rimborsabili. In tutto questo, Alfieri, le volevo chiedere anche un'altra cosa che mi ha incuriosito molto. La Banca Centrale Europea ha invitato negli scorsi giorni alle banche europee, quindi anche a quelle italiane, a sospendere l'erogazione del dividendo. Se un risparmiatore vuole investire in azioni in una banca, lo fa magari anche perché questa remunera gli azionisti, perché questo è un aspetto da non trascurare. Negli Stati Uniti invece la Federal Reserve ha detto che le banche fate quello che volete, non è necessario che sospendiate. Questa è un pochino però un po' una concorrenza sleale. È chiaro che se uno deve scegliere dove va, sceglie una banca americana rispetto ad una europea se guarda l'aspetto del dividendo. Le chiedo un po' di fare un ragionamento su questi aspetti che le propongo. Ma sicuramente ovviamente abbiamo sempre avuto negli anni atteggiamenti diversi da parte delle cosiddette authorities americane da una parte ed europea dall'altra, anche nella regolamentazione e nelle norme stringenti o meno che hanno caratterizzato un po' la storia diciamo delle varie banche. Nella fattispecie, nel caso specifico, però non ci dimentichiamo che anche le banche americane stanno annunciando ovviamente forti riduzioni appunto non solo negli utili ma anche nei dividendi. Addirittura forse le più importanti annunciano, dopo molti decenni, per la prima volta la mancanza di un pagamento del dividendo per uno o più trimestri. Quindi questo è un atteggiamento, diciamo, di consapevolezza dell'intero settore, che stiamo andando verso diciamo una stagione molto complicata. La forte correzione degli utili delle banche americane, ricordiamoci, come giustamente hai sottolineato tu, deriva dal fatto che ci sono forti accantonamenti. Quindi per quanto riguarda i ricavi, tutto sommato le banche americane e presumibilmente anche quelle italiane non subiranno nel brevissimo forti correzioni, ma ci si prepara evidentemente a una stagione più difficile. Direi che in questo caso quindi l'investitore non trova un atteggiamento diverso. Alla fine, probabilmente, per quanto riguarda le banche, il settore bancario nel breve termine, sia da una parte che dall'altra parte dell'oceano, i dividendi verranno o sospesi o addirittura fortemente ridotti. Quindi questa sostanziale libertà di movimento poi sarebbe più un atto formale piuttosto che un atto sostanziale nei confronti dei mercati, parlo del comportamento statunitense, Alfieri. Sì, alla fine diciamo che la consapevolezza, come dicevo, che anche negli Stati Uniti ci saranno forti ripercussioni in materia di credito, sta portando comunque le banche americane a valutare sospensioni per più trimestri dei dividendi. Mm-hmm. C'è un'ascoltatrice, Mauro Emanuela, che ci scrive: allora, caro Due di Denari, vabbè, parliamo in soldoni. È meno rischioso tenere i soldi sul conto corrente o sottoscrivere BTP, quindi titoli di Stato italiani? Ed è a rischio il rimborso a scadenza dei BTP? Alfieri, questo è un tema che sicuramente ci accompagnerà per un po' di tempo prossimamente, perché sappiamo per certo che il Tesoro si appresta a lanciare una nuova emissione di BTP Italia con delle caratteristiche diverse rispetto alle emissioni precedenti, ma vuole ritornare a puntare sul pubblico indistinto, sui piccoli risparmiatori. Le chiedo quindi come potremmo rispondere a questa ascoltatrice che, da quello che capisco, vuole risparmiare tenendo il suo risparmio in forma estremamente liquida, però chiaramente si interroga anche sul fatto se con l'elevato debito pubblico che l'Italia sta sopportando in questo momento e sarà sempre più alto per fronteggiare la crisi economica, si rischia che in futuro appunto possano i titoli di Stato diventare un pochino più rischiosi. Cosa ne pensa? Ma ovviamente questo è un tema molto di attualità, ma non riguarda solo l'Italia. Non ci dimentichiamo che il debito sta crescendo in modo rilevante anche in altri paesi europei. Il discorso è che la liquidità, non ci dimentichiamo, tenuta per un certo periodo di tempo, non protegge dall'erosione, ovviamente semplicemente per effetto dell'inflazione. Quindi investire in liquidità non è una soluzione. Lo dicevamo in modo molto chiaro fino a pochi mesi fa, lo dobbiamo continuare a ricordare. Per quanto riguarda invece il discorso dell'investimento in titoli governativi, ripeto, al momento, anche grazie evidentemente al fatto della protezione di un'armonia europea delle varie iniziative, il BTP, ma non solo, diciamo tutti i titoli di Stato, anche delle aree regionali diciamo più deboli, sono in questo momento preservate. Quindi direi che gli investitori in questo momento non guardano con particolare preoccupazione al default di un paese piuttosto che di un altro. È chiaro che un discorso diverso sarà la volatilità sullo spread, che in questa fase di crisi così profonda rimarrà senz'altro molto elevato, non lo spread ma la volatilità, cioè le oscillazioni dello spread. E infatti, a conferma di quanto ci sta raccontando Lorenzo Alfieri, oggi lo spread BTP Bund è in calo di quasi 5 punti percentuali, di 4-5 punti percentuali, attualmente vedo che segna, lo trascrivo dal sito del Sole 24 Ore, 222, e così un pochino, vedi Deborah come sto imparando a furia di ascoltarti nelle tue segnalazioni. Azioni borsistiche dei mercati. D'altronde, con questi miei collegamenti precari, Mauro, ti devi preparare a tutto, anche a raccontare la borsa. Prima o poi te lo lascio fare. Guarda, per adesso mi limito a lanciare il traffico. Strade in diretta. Un saluto agli ascoltatori e ben ritrovati. Segnaliamo ancora rallentamenti dovuti ai controlli della polizia sulla 8 Milano-Varese tra la barriera di Milano Nord e Fiera Milano in direzione del capoluogo lombardo. Ricordiamo inoltre in questo appuntamento che in questo periodo di emergenza Covid-19 sono disponibili nelle aree di ristoro autostradali solamente prodotti da asporto. Non è possibile consumare pasti all'interno dei locali. Con questo è tutto. Le prossime novità fra circa un'ora. Più tardi. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Due di Denari. Investire informati. Buongiorno a tutti. Vorrei che il mio intervento fosse un po' controcorrente rispetto agli standard di Radio 24 e di questa trasmissione che normalmente si rivolge ad un pubblico di risparmiatori e di gente comune. Lavoro da 20 anni in un primario istituto bancario come consulente finanziario. Tutti i giorni sentiamo il bisogno di ringraziare gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli OS, i farmacisti, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Li ringrazio anch'io per l'anima che spendono nella gestione di questa crisi. Tuttavia io non sono un medico, faccio un altro lavoro, ma ho l'obbligo morale di far bene il mio lavoro e di fare il massimo che è nelle mie possibilità per dare il mio contributo. Vorrei rivolgere il mio pensiero a tutti i colleghi consulenti finanziari, invitandoli a restare vicini ai propri clienti. Molti di loro sono davvero spaventati, impauriti per i risvolti economici che la crisi sanitaria sta portando. Il risparmio sta attraversando uno di quei momenti che accadono ogni 10 anni, uno di quei terremoti che paralizzano i pensieri e la razionalità di chi non opera quotidianamente con questa materia. I consulenti più fortunati hanno una banca che li supporta e i consulenti più fortunati hanno clienti che li chiamano per esporre i loro timori e le loro paure. I clienti che invece non chiamano i loro consulenti non sono i più forti, bensì sono i più deboli e i più impauriti. È a questi clienti che dobbiamo le nostre attenzioni e le nostre cure. Restiamo loro vicini, aiutiamoli a far loro capire che è solo una crisi passeggera e tutto tornerà a crescere. Restiamo vicini ai nostri clienti e diamo una iniezione di fiducia nel nostro settore. E questo Mauro era Paolo Borgato, Family Banker di Banca Mediolanum di Padova. Banca Mediolanum di Padova. Deborah, hai ancora un po' di esitazioni nel collegamento? Speriamo che per questa ultima tranche della puntata quelle cose vadano a migliorare. Oggi davvero la tecnologia non ci vuole aiutare, quindi mi viene da pensare, Lorenzo Alfieri, che è Country Head per l'Italia, come sapete, di JP Morgan Asset Management, ci sono dei settori che forse sono più interessanti, ad esempio i collegamenti, tal quello che possiamo vedere questa mattina, hanno ampi margini di miglioramento, forse si potrebbe puntare, lei prima evocava appunto la composizione del listino statunitense dicendo ci sono dei settori che sembrano più favoriti, addirittura sono cresciuti proprio nella fase anche della crisi sanitaria. Assolutamente sì, diciamo che questa crisi molto importante però ha finalmente, diciamo, e forse definitivamente fatto capire quali possono essere le evoluzioni per alcuni settori. Parlo ovviamente, prima ho parlato della tecnologia, parlo però anche delle biotecnologie, della farmaceutica, dell'internet, anche delle utilities, diciamo, quindi sono tutta una serie di settori che, come avevo detto all'inizio, escono vincenti, ma soprattutto ci preparano a uno, probabilmente a stili di vita, interazioni diverse, e questi settori risultano essere centrali, ancora più centrali di quanto non lo fossero fino a pochi mesi fa. Alfieri, tutta allora questa... Com'è? Sì, prego Deborah, non pensavo che avessimo recuperato così rapidamente. Prego. Ogni tanto mi insinuo anche per fare il test di prove tecniche di funzionamento del collegamento, ma se avevi una domanda, prego Mauro, fidati. No, volevo chiedere, siccome abbiamo cercato di capire se ci sono dei settori in qualche modo favoriti o comunque meglio posizionati rispetto a una futura ripresa, una futura uscita da questa crisi, che volevo andare per paesi, perché appunto questo, tutto ciò è cominciato dall'Asia, verrebbe da dire magari proprio l'Asia in questo momento è tra i paesi più promettenti se uno volesse investire. Qualche ascoltatore ce lo sta scrivendo sui WhatsApp, sui nostri messaggi WhatsApp, dicendo io comunque ho un po' di liquidità in questo momento, quasi quasi, avendo un indirizzo sicuro, e certo è chi non ce l'ha, però potrebbe essere che lì in questi paesi asiatici ci siano delle prospettive migliori adesso. Allora, faccio ovviamente un'importante premessa: la volatilità siamo ovviamente in una fase iniziale della crisi, rimarrà molto alta, quindi è presumibile che in tutti i mercati finanziari di qualsiasi regione andiamo ad analizzare nei prossimi mesi subiranno questa rilevante volatilità dovuta, come dicevo all'inizio, all'incertezza dell'impatto della, diciamo, crisi sanitaria, ma che poi diventerà una crisi economica e in parte diventata anche una crisi finanziaria, come andrà a caratterizzarsi nei prossimi trimestri. Ciò nonostante possiamo dire che effettivamente alcune aree sembrano essere privilegiate, Cina e India sembrano essere potrebbero essere facilmente favorite, come ad esempio la Corea del Sud, come ad esempio alcuni paesi emergenti dell'area asiatica, che hanno in termini previsionali tassi di crescita sicuramente meno impattati rispetto a quelli dell'area europea e dell'area americana. Però più che forse guardare, come dicevo prima, ai paesi, è forse meglio guardare ai settori dove effettivamente, a prescindere da quale destino viene quotata un'azienda, sicuramente alcuni segmenti, alcune aree settoriali sembrano essere ben posizionate. Mauro, stavo pensando al grande tema che abbiamo affrontato in questi giorni. È chiaro che i ragionamenti che stiamo facendo con Lorenzo Alfieri questa mattina sono ragionamenti che facciamo a beneficio di chi può ancora risparmiare e investire e quindi si interroga su come meglio collocare le proprie risorse in questo momento. Ciò non toglie che una fetta di liquidità è importante, perché abbiamo scoperto in queste settimane durissime che molti nuclei familiari, molti piccoli risparmiatori, ma anche molte piccole imprese non avevano liquidità sufficiente a fronteggiare queste settimane di arresto importante ed improvviso di ogni attività produttiva. Per cui è chiaro che un piccolo cuscinetto tutti abbiamo la responsabilità di farcelo. Non so, Lorenzo Alfieri, se vuole dare qualche consiglio anche in questo senso. Un conto è quello che risparmiamo e lo dobbiamo ovviamente collocare in un certo modo, un conto è la liquidità che ci serve per fronteggiare magari 1, 2, 3, 4, 6 mesi difficili, e quello è un cuscinetto che ha senso però tenere sotto forma liquida, evidentemente. Quindi qual è la miglior forma secondo lei, oltre al conto corrente, al conto di deposito, quali sono quegli strumenti che si possono liquidare abbastanza facilmente per non tenerli immobili esclusivamente sul conto corrente? Ma innanzitutto faccio una premessa, è molto corretto quello che abbiamo detto, ricordiamo che alla base ci deve essere la cosiddetta pianificazione finanziaria, cioè io devo comunque sapere del mio patrimonio quale parte posso permettermi di investire, perché comunque non ne avrò mai assolutamente bisogno. E quindi lasciare invece un'altra parte del proprio patrimonio a pronto utilizzo. Ecco, non ci dimentichiamo che comunque ci sono tante soluzioni di investimento che presentano una pronta liquidabilità, che è un concetto però diverso rispetto dal non rischiare ovviamente di avere delle perdite, perché evidentemente a questo punto, se uno vuole avere la pronta liquidabilità dello strumento e avere la certezza, tra virgolette, di non avere perdite, inevitabilmente o si va sul conto corrente oppure sui cosiddetti fondi monetari, guardando attentamente però che tipo di investimento questi fondi monetari fanno, perché non ci dimentichiamo che un conto è ovviamente un fondo monetario che investe a brevissimo termine, altro è un fondo monetario che magari abbia come benchmark di riferimento 3 anni, ecco, in questo caso evidentemente gli investimenti di questo tipo di fondo possono anche loro subire delle oscillazioni nel breve termine. A me viene da pensare, Deborah, che in questo momento bisognerà che tutti noi risparmiatori, pochi o tanti che abbiamo da parte, diventiamo ancora più attenti, ma stavo per dire ossessivi, nel comunicare con chi ci aiuta nella gestione dei nostri risparmi, che sia il consulente finanziario ma anche solo la persona che possiamo trovare dall'altra parte, in questo momento non dello sportello ma del telefono ad esempio, dell'email, cioè farsi spiegare molto molto bene le caratteristiche dello strumento che ci viene proposto posto o dal quale vogliamo uscire perché vogliamo in questo momento privilegiare la liquidità, non credi? Sì, stai dicendo a me, sì, certo, sono assolutamente condivisibili questi tuoi ragionamenti, Mauro, e per cui noi proveremo con due dei denari naturalmente ad accompagnare anche le persone in queste prossime settimane in cui diventerà particolarmente alta la nostra soglia di attenzione attorno a questi argomenti. Ci manca un minuto di tempo con Lorenzo Alfieri, in realtà volevamo un pochino esplorare anche il tema della sostenibilità appunto finanziaria dei nostri investimenti, magari dovremo riorganizzarci per una puntata apposita per capire se questo tema diventerà veramente il grande tema dell'investimento prossimamente, perché è quello del lungo termine, e siccome adesso dobbiamo impegnarci a guardare un po' di più ad un termine, ad un orizzonte temporale un pochino più in là, forse questo sarà appunto la soluzione di investimento più gettonata da qui in avanti. Un ultimo messaggio per i nostri ascoltatori, Alfieri, come dobbiamo affrontare queste prossime settimane che immaginiamo saranno ancora un pochino sul lotto volante per le classi di investimento? Sì, sicuramente, come dicevo prima, ci sarà e permarrà una certa volatilità, quindi assolutamente valutare innanzitutto per investire effettivamente, come dicevo prima, una corretta pianificazione, una corretta diversificazione. Probabilmente avremo altre fasi alterne, non farsi ovviamente prendere dall'affanno né di entrare né eventualmente di scappare dai mercati finanziari, perché come al solito se ne uscirà ovviamente da questa fase di profonda crisi, e come è già avvenuto nei cicli precedenti, usciremo ovviamente gradualmente da questa fase molto critica per trovare nuovamente una fase di solida crescita e evidentemente anche di performance dei mercati finanziari. Grazie Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, grazie a Deborah e grazie a chi ci ha seguito. Torniamo domani naturalmente alla stessa ora.